America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington, Mario Platero. The reforms that he has undertaken, and particularly the labor reform, is also very welcome. Christine Lagarde è la prima intervista che il direttore del Fondo Monetario Internazionale ha concesso a un quotidiano italiano. Sono qui nella capitale americana con Alessandro Merli. Questa mattina è uscita sul nostro giornale l'intervista concessa appunto dalla Lagarde al Sole 24 Ore, e nel breve estratto che vi ho fatto ascoltare la Lagarde elogia gli sforzi del governo Monti, ma chiede che la riforma del mercato del lavoro affronti l'incertezza sui licenziamenti in modo che le imprese e i datori di lavoro possano sentirsi più fiduciosi al momento di assumere. Dunque un messaggio molto chiaro quello della Lagarde: attenzione a mantenere una riforma importante sulle rigidità del mercato del lavoro e a non deludere il mercato nel momento soprattutto in cui si dovrà andare al Parlamento. La Lagarde ci ha dato anche una notizia, dice che l'Italia, qualcuno di voi lo ricorderanno, durante il G20 di Cannes fu deciso di mettere l'Italia, diciamo, sotto monitoraggio del Fondo Monetario. Ecco, lei ci ha detto che a questo punto non c'è più questo monitoraggio dell'Italia, e spiega perché. Dice che non è più necessario, in quanto oggi mercati e investitori hanno maggiore fiducia nella capacità di riforma del governo tecnico. Ci dice anche di essere in frequente contatto con il Presidente del Consiglio Mario Monti, e fa riferimento a quel particolare momento a novembre, il novembre scorso a Cannes, quando il precedente Presidente del Consiglio, così si riferisce alla Lagarde parlando di Berlusconi, diceva lui stesso che nonostante ci fossero delle misure anche importanti, il mercato non reagiva. Ecco, il secondo punto importante è che a questo punto il mercato reagisce. Ha approvato la Lagarde le misure di riforma fiscale per ridurre il disavanzo pubblico e dice naturalmente di puntare molto alla crescita, e in questo contesto offre due proposte. We have a couple of ideas, and you were talking about this sort of link between the sovereign and the banks, and we would certainly strongly support a policy that would allow the EFSF or the ESM. Due proposte piuttosto importanti. La prima, la Lagarde incoraggia la BCE a occuparsi anche di crescita. Ci sono due scuole di pensiero su questo punto. I tedeschi naturalmente non vogliono, altri paesi, inclusi gli Stati Uniti, inclusa l'Italia, lo vorrebbero, però la situazione è da un passo. Altro suggerimento: la Lagarde ha chiesto che i fondi in dotazione a FSF e ESM, che sono poi i due grandi fondi salva stati, ecco, suggerisce che per risolvere l'impasse sul credito, sappiamo che il credito non arriva alle aziende oppure arriva a dei tassi straordinariamente elevati, ecco, che ci sia un passaggio diretto, un accesso diretto delle banche a questi fondi dell'FSF e dell'ESM. Infine, altro punto importante: per ora difficilmente, almeno così ci è sembrato di capire, ci sarà la possibilità di chiudere la partita sul firewall durante questa settimana. Durante gli incontri di questa settimana al Fondo Monetario, la Lagarde ha detto che alcuni paesi potrebbero chiedere così una proroga di qualche settimana perché dovranno ottenere delle approvazioni da parte del loro Parlamento. La realtà è che forse appunto i tempi non ci sono e che tutto sarà rimandato poi agli incontri del G20 di Cabo San Lucas in Messico, incontri che si terranno in giugno. Dunque, come dice la Lagarde, comunque si tratta di un rinvio di appena poche settimane. La Lagarde ha cercato anche di spiegare perché ha chiesto meno fondi rispetto ai 500 miliardi più 100 miliardi di riserve iniziali, di dollari ovviamente, e sostiene che rispetto ai conti che erano stati fatti in gennaio c'è in questo momento una situazione migliore dal punto di vista fiscale. Molti paesi che potevano essere oggetto di protezione hanno già coperto almeno, dice, il 50% del loro fabbisogno di credito per il 2012. Ecco, questo è il quadro d'insieme. L'intervista la trovate sul nostro sito, la trovate sul quotidiano di oggi. Ecco, Alessandro è qui con me. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo visto prima un po' le dichiarazioni della Lagarde, ci sono un po' di messaggi. Secondo te qual è il più interessante? Beh, intanto c'è un incoraggiamento a andare avanti, a non mollare sull'articolo 18. Beh, questo sicuramente è un punto molto importante per l'occupazione, che è uno dei problemi in questo momento dell'economia italiana, insieme a quello della crescita. Importante anche per l'attrazione di investimenti dall'estero, che sappiamo in Italia mancano e che questa misura dovrebbe in qualche modo facilitare. Ecco, Alessandro, una delle cose più interessanti che ci ha detto la Lagarde, secondo me, è questa, che secondo lei la BCE dovrebbe occuparsi anche di crescita. Tu sei adesso corrispondente a Francoforte, dunque è la Germania che si pone come ostacolo. Secondo te come reagirà? È fattibile questa proposta della Lagarde, oppure ci sarà subito uno stop? Ma su questo punto credo che da parte tedesca ci sia una chiusura praticamente totale. Da parte tedesca e di alcuni altri paesi, i cosiddetti paesi della linea del rigore, soprattutto in questo momento è inaccettabile. Però comunque apre un dibattito il fatto che un'istituzione come il Fondo Monetario, che a sua volta è considerato uno dei guardiani del rigore, della stabilità finanziaria, faccia un'apertura su questo punto, credo che sia significativo. Ecco, l'altra cosa è quella di far sì che ci sia anche un accesso delle banche ai fondi salvastati, al fondo dell'FSF, al fondo ISM. Ecco, è fattibile secondo te questa cosa? È una buona idea? È una buona idea, anche se la Lagarde stessa ammette che lei l'ha lanciata per la prima volta nel luglio scorso ed è caduta un po' nel vuoto, però si è ripromessa di insistere nei prossimi incontri con le autorità europee. Non c'è dubbio che una delle ragioni per cui le banche non fanno credito è che non sono sicuri della stessa solidità dei propri conti, che quindi se fossero supportate da questi fondi europei magari potrebbero convincersi a concedere più credito. L'ultima cosa che mi ha colpito è sul firewall. Ma c'è sicuramente un problema politico, i paesi extraeuropei sono riluttanti a impegnare delle risorse nel momento in cui vedono che questo sforzo da parte degli europei stessi è abbastanza limitato. In fondo l'ultima decisione europea è stata di aumentare queste risorse dei fondi salvastati, però solo in modo temporaneo, per poi ritirarle a metà dell'anno prossimo. Quindi a quel punto i paesi extraeuropei dicono: ma se gli europei, che sono paesi ricchi e che hanno queste disponibilità, non si vogliono impegnare fino in fondo, perché dovremmo farlo noi? Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Fondo Monetario Internazionale da una parte, cominciano le riunioni, la protesta di Occupy Wall Street e altre proteste che si stanno preparando qui a Washington. Tutto torna in qualche modo. Ieri, pensate, era il 50° anniversario di Blowing in the Wind, la canzone celeberrima di protesta di Bob Dylan. E dunque, visto che questa canzone è immortale e validissima anche oggi, Blowing in the Wind di Bob Dylan. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Da Washington è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.